sulla vecchia terrazza le terre lontane non segnavano confini, e la strada in basso giù il perpendicolare pungeva all'orizzonte e ci portava il mare. Sulle umane guerre, sugli sguardi minacciosi della quotidianità. Il vento polveroso soffiava nei tuoi occhi e qualcosa di importante fuggiva ai nostri sensi. L'universo unge i tuoi capelli. Immenso ci mozzava le parole.